Allora, come vi trovate a Tione? A Tione oramai bene. No, bene. E cosa ne pensa dei giovani? Beh, sono bravi, io quelli che ho visto, che conosco, sono bravi ragazzi. E secondo lei, i giovani, cosa pensano degli adulti? Quello devo chiedergli a voi, cosa pensate voi degli adulti? Non so.